Andiamo avanti un po' come la scuola, no? Ci stiamo avviando alla conclusione, nel senso che questa biblioteca rimarrà aperta anche in estate, però diciamo che con la metà di giugno non andiamo avanti con le iniziative serali e invece siamo orientati a riproporre, come negli anni precedenti, delle iniziative durante la mattina, soprattutto legate al nostro sito web e a tutti i servizi che vengono offerti gratuitamente attraverso il web della biblioteca. Così che uno va in vacanza, ha nostalgia della BP, rimane collegato e connesso con noi, perché questa è un po' anche la filosofia che vorremmo così abbracciare, quella di rimanere collegati e connessi, no? Con i nostri utenti ed essere sempre d'aiuto. Ma invece nei rapporti più personali, più concreti, nelle relazioni umane e nelle prospettive di lettura e nella promozione che facciamo settimanalmente, andremo avanti per tutto il mese di maggio ed oggi è con noi appunto Ada Zapperi Zucker, che ritorna in questa biblioteca dopo esserci stata già nel corso di questi anni parecchie volte. Sì, è una scrittrice di grande successo, non solo, ma è un artista a tutto tondo, perché è cantante, insegnante, so che le piace anche dipingere, insomma ha una sua modalità di espressione che tocca più corde e con grande capacità e con grande capacità di trasmettere emozioni. È tornata da noi, l'abbiamo avuto il piacere di conoscerla ancora nel 2006 ed è anche l'anno in cui diciamo ha iniziato a ricevere parecchi premi, perché ho visto che c'è una sfilza di premi vinti per i suoi romanzi, che devo dire vengono anche letti molto volentieri dal nostro pubblico. Questa sera siamo qui con Un giorno a Bolzano, sulle tracce di una generazione perduta, ed è qui con noi Paolo Mazzucato, una persona che conoscerete appunto tutti, voce nota, volto noto, conduttore, giornalista della RAI, e ci fa molto piacere che sia lui questa sera a darci una mano a presentare e a rendere onore alla nostra cara Ada Zapperi Zucker. Vi ringrazio di essere venuti, i libri sono qua, c'è però anche la possibilità di acquistarli e ci sono nella bacheca alcuni romanzi che ha scritto precedentemente, quelli che non sono andati in prestito, le copie che si è riusciti a salvare, perché ecco, girano molto. Grazie a voi. Allora, buonasera, grazie di essere qui. Noi adesso racconteremo insieme ad Ada il suo ultimo libro, diceva giustamente Valeria Trevisan, che sono ormai molti i libri che Ada Zapperi ha scritto, partendo da un volume anche molto fortunato, che ha raccontato la storia delle scuole, delle catacombe che sono nate insomma qui in Alto Adige durante il fascismo. Da quel libro sono nate molte altre storie. Se si va sul sito di Ada Zapperi Zucker, di cui apprendo che è anche su Facebook pochissimo, si scopre che uno dei motivi ispiratori della sua letteratura, che è letteratura di finzione, quindi che racconta storie che nascono da suggestione naturalmente, ma che poi vengono costruite in base alla sua fantasia, è il confronto molto serrato con la storia in particolare del XX secolo, che è la nostra storia contemporanea, neanche troppo lontana. Allora, in questa narrazione che noi faremo di questo libro, che è una raccolta di 4 racconti, e poi c'è anche una biografia che è un omaggio, magari qualcosa diremo anche di quello, forse possiamo partire, visto che la conoscete già, che ha già presentato qui in questa biblioteca i suoi libri, potremmo partire con Ada facendoci raccontare da dove partano i suoi racconti, dove traggano, non dico ispirazione, da dove inizi insomma il cammino della scrittura, che è un cammino sempre lento, di revisione, di riscrittura, ma vorremmo sapere da dove parti, da dove trovi appunto lo spunto iniziale per scrivere una storia. Allora, lo spunto iniziale è molto difficile da descrivere, perché è un segreto anche per me, cioè nel senso che non lo so neanche io come nasce improvvisamente il desiderio di scrivere una storia. Intanto io parto principalmente da una città e devo collocare una storia in una città precisa, delle strade, delle case, e veramente ho bisogno di un luogo, e questo è già la partenza. In questo libro, in particolare nel racconto che dà il nome al libro, che è Un giorno a Bolzano, Bolzano diventa veramente il crocevia di diverse storie personali, ma diremmo anche proprio storie che riguardano il percorso del Novecento. A Bolzano si trova il punto di incontro tra due estremità, nord-sud, che poi fanno anche parte dell'esistenza di Ada Zafferi Zucker, da Catania, Monaco, l'Europa in generale e comunque un punto d'appoggio importante a Bressanone. Bolzano lega Pisa da una parte e di una piccola città della Baviera. Allora, oggi queste domande sono molto intriganti, devo dire, perché per la prima volta mi piace finalmente raccontare come nasce un racconto. Scusate questo gioco di parole. Cioè, in realtà si tratta di avere dei pezzetti di puzzle che si mettono man mano insieme. Allora, prima di ogni cosa, una delle cose fondamentali per me, come ho detto, è una città. E perché ho scelto Bolzano? Prima di tutto perché la conosco molto bene. Forse è la seconda città dopo Roma che conosco così bene, una città dove io non mi perdo mai, cose che normalmente mi perdo sempre, invece a Bolzano non mi perdo mai, so sempre dove sono, la stessa cosa a Roma. Quindi ho scelto Bolzano perché posso descrivere il cammino di questa persona che arriva appunto a Bolzano per la prima volta. E forse sarebbe bene il caso di leggere l'arrivo alla stazione, che è la nostra stazione, la stazione la di Bolzano vera e propria. Forse possiamo anche anticipare in che anno siamo, dire in che collocazione temporale questo racconto. Questo lo posso dire subito, perché questo racconto mi è stato ispirato dalla lettura di un libro sulle scuole in Sud Tirolo di un signor Seberi, un libro devo dire un po' noioso però molto interessante, che racconta effettivamente il seguito di quello che succede in Sud Tirolo dall'inizio del secolo fino alla fine del secolo XX. Per quale motivo l'ho letto non posso neanche dirlo, ma a me piace moltissimo leggere libri noiosi, perché da quelli che imparo moltissime cose. E ho saputo per puro caso effettivamente che negli anni 64-65 e anche nell'Alto Adige, alias Sud Tirolo, fu per un ordine ministeriale fu ordinato e che scusate il mio italiano, io parlo sempre in tedesco, questo lo devo dire subito perché ho difficoltà all'inizio di parlare la mia lingua, fu stabilito che anche nel Sud Tirolo ci fosse la scuola obbligatoria di 13 anni, cioè la scuola media, le tre classi medie prima non erano obbligatorie, e questo avvenne esattamente nell'anno scolastico 64-65. Questo mi diede già lo spunto, cioè mi incuriosì moltissimo cosa succede a questi insegnanti che da qualsiasi posto dell'Italia vengono trasferiti a Bolzano, quali sono le loro impressioni e per quale motivo si lasciano trasferire proprio a Bolzano. O scelgono, come nel caso della protagonista. Nel caso della protagonista ci sono dei motivi precisi. Allora io leggo proprio una mezza pagina dell'inizio del racconto, tanto per introdurre questo personaggio e la città. Oppure devo leggere col microfono. Mai avrebbe pensato di trovare in una città così a nord come Bolzano un caldo come quello. E questo lo conoscete voi tutti, che Bolzano può essere una città caldissima. Del resto, già di buon mattino, alla stazione di Firenze, ne aveva sentito le prime avvisaglie. E durante tutto il viaggio era stata un'altalena fra freddo e caldo, dato che l'aria condizionata sembrava farsi gioco dei viaggiatori. E qui adesso ho una domanda precisa a voi: quando c'è stata per la prima volta l'aria condizionata nei treni? Qui temo di aver fatto un errore. Nel 64-65 forse no? No? Allora, vi ringrazio. Già mi avete aiutato moltissimo. Forse nei rapidi. No, no. Non c'era. Grazie infinite, questo lo tolgo per la seconda edizione. Ora, scendendo dal treno, ebbe l'impressione di entrare in un forno, e questo in modo definitivo. Si fermò sul marciapiede sotto la pensilina già affranta. Le due pesanti valigie, più un borsone da viaggio faticosamente accatastati accanto a sé, e cercò con gli occhi qualcuno che potesse aiutarla. In un batter d'occhio la piccola folla di viaggiatori si era dileguata. Il treno era ripartito e si ritrovò sola, su un marciapiede deserto in una stazione che sembrava abbandonarla al suo destino. Ecco l'arrivata a Bolzano. E già sappiamo dall'inizio che lei ha cambiato treno a Firenze, cioè lei è una toscana. Questo è molto importante, cioè stabilire già dei punti di appoggio per il lettore, per capire dove si trova, chi è. E proseguo subito dando il nome alla protagonista. Miranda uscì sulla piazza della stazione, anche lì un caldo africano. Automobili, qualche autobus, poca gente per strada. È l'ora di pranzo, pensò, e nessuno è così pazzo di uscire con questo caldo. Sentì una fitta allo stomaco. Fame. Possiamo proseguire. Così abbiamo introdotto Miranda, che è la protagonista di questo racconto. Miranda viene dalla Toscana, ha scelto di venire a Bolzano, questa è una cosa molto importante. Siamo nel 64, quindi non dobbiamo pensare a scenari di guerra, in qualche modo, come spesso la guerra è presente nei racconti di Ada, però possiamo immaginare com'era la Bolzano in quei giorni e perché ancora nel 64 l'arrivo di un insegnante di lingua italiana, quindi in un contesto totalmente diverso alle scuole delle catacombe che avete già conosciuto, abbia tuttora, anche allora, insomma, meglio, uno sguardo in qualche modo estraniato. Se una cosa colpisce di Miranda è che prima di tutto ha curiosità per il luogo, e la prima cosa che fa è andare in cerca di libri che raccontino la storia della città, ancora una volta il luogo. Ma soprattutto di un ristorante. Questo è molto importante prima, per chi ha fame. Allora si mise in cammino in cerca di un ristorante. E questo è molto importante perché adesso io descrivo un ristorante che poi è un albergo, che si chiama Grifone, che io ho conosciuto dall'inizio degli anni 70, quindi appena pochi anni dopo questa storia, e che io ho voluto descrivere perché mi impressionò moltissimo. Attraversò la piazza della stazione e si avviò lungo il viale alberato, ai lati prati e piante, percorrendolo tutto fino a sbucare su un'ampia piazza con una statua in mezzo, che la volta Plaza, ma lei non lo sapeva, veramente. Ma le valigie le aveva sistemate? Sì, tanto. Sì, giustissima domanda, questo si svolge nelle tue pagine precedenti. Ah, ecco, no, perché nel 64 non c'era il monumento levato in Piazza Valle. Era da un'altra parte, mannaggia. Ma questo è fiction. Abbiamo detto che è fiction. No, è molto importante. Non c'era Piazza Walter nel 64, no, la piazza. No, la piazza c'era, sì. Ma avevano spostato la statua, che poi l'hanno rimessa. E cosa c'era lì davanti, sì, allora, sulla piazza? Il parcheggio. Molte grazie, questo è molto importante. Questo lo toglierò immediatamente. Questo è un gruppo di lettura, questo, più che un pubblico. Sono dei consigli che mi state dando, molto preziosi. Negli anni 80. Bene, grazie dell'informazione, sono molto grata. Allora, una specie di giardino con grossi vasi di terracotta, scusate, adesso vengo io. Allo, signor Bertagnoli, la prego. E comunque, appunto, come diceva Paolo, questo è fiction, quindi va bene, vale tutto. Allora, è meglio grossi vasi di terracotta con alberelli striminziti che tentavano di nascondere i tavoli di un ristorante. Senza pensarci un momento, si diresse da quella parte. Entrò sotto la pergola e si guardò intorno. Tutti i tavoli erano occupati. Decise di entrare nel ristorante e si trovò di colpo in un locale dove sembrava che il tempo si fosse fermato. come minimo da una cinquantina d'anni, e questo lo testimonio io. Pesanti tende coprivano le grandi finestre, tappeti folti e polverosi attutivano i passi, mobili scuri e pesanti, grosse poltrone di velluto rosso, lampade che diffondevano una luce crepuscolare in pieno giorno, un'atmosfera da fin de siècle, da togliere il respiro. Per un momento ebbe l'impressione di trovarsi nel film sbagliato. Allora qui abbiamo già la Bolzano degli anni 60, io l'ho visto nel 70, però non credo che siano cambiate molte cose in questo albergo. Prego. Un albergo che tra l'altro, così come tu lo descrivi, non c'è più, perché non c'è più. È stato completamente no, rinnovato. Non c'è più. Però quella pesantezza, diciamo, delle tende che tu evochi è una cosa che ovviamente può rimanere evidentemente negli occhi, anche nella sensazione di essere accolti in una città che appunto per Miranda è una città strana, coglie appunto l'accento delle sue delle persone che la abitano, e forse però potremmo spiegare che questa situazione, sensazione di straniamento che prova in una città come Bolzano non fa che aumentare o rendere ancora più evidente il motivo per cui lei ha scelto, insomma, di lasciare la propria città e di venire a trasferirsi non proprio a metà strada, insomma, però con un pezzo di strada che la unisce ad un altro paesino, un paesino che si trova invece in Germania, e la presenza a Bolzano in qualche modo la mette in una terra di mezzo e la costringe, o nelle sue idee la aiuterà, a fare i conti con il proprio presente. Miranda, forse diciamo che è una quarantenne. Posso descrivere Miranda? Certo. Allora, io devo subito dire che questa Miranda che descrivo io esiste effettivamente. E le ho chiesto anche permesso di metterla dentro un libro. Dopo aver fatto l'esperienza di un altro personaggio che ho infilato in un romanzo e che mi ha telefonato facendomi delle rimostranze che non vi dico. Questa è stata una bella lezione per me, per cui adesso quando scrivo di qualcuno che esiste sul serio, la prima cosa che faccio, dico: mi permettete, mi permetti, l'ha letto, ha detto accetto tutto. Bene, adesso l'ho stampato e posso dirlo sinceramente. Naturalmente non è la sua storia al 100%, però il personaggio è quello, e ve lo voglio descrivere in due parole, perché è una donna di una quarantina d'anni con i capelli rossi. Dove io avevo messo tutti i segnetti, e questo qui, questo signore mi sta confondendo le idee. Non lo trovo. Ah, qui. Dunque, il motivo per... partiamo da questo qui. Miranda aveva chiesto di essere trasferita a Bolzano dalla sua sede di Pisa. Vi era nata e vissuta, e da quando aveva finito l'università vi insegnava materie letterarie in una scuola media. Vicina ai 40 anni, eccola qui, adesso ve la presento perfettamente come è lei nella realtà. Portati molto bene, era una donnina di un'eleganza tutta particolare, che si distingueva per un tocco di stravaganza e originalità nella scelta delle fogge e dei colori dei vestiti, sempre fuori dalle convenzioni dettate dalla moda. Era assai minuta, una figurina che sembrava di porcellana, le cui proporzioni spesso traevano in inganno sulle vere potenzialità di energia e volontà di cui disponeva. Una massa di capelli ricciuti di un bel rosso chiaro, ribelli al pettine e alle mani sapienti di ogni parrucchiere che tentava di domarli, incorniciava un visetto quasi di bambina o di furetto, a seconda delle situazioni. Questa donna, dunque, devo dire che effettivamente è toscana, e che io ho conosciuto durante un se volete posso raccontare come è andata questa storia molto strana, e così potete anche capire da dove nascono le storie e i personaggi. Io vivo a Monaco, questo lo sanno tutte le persone che mi conoscono, e un giorno fui invitata all'Istituto Italiano di Cultura a partecipare a un simposio su i bambini diversamente, come si dice? Diversamente abili, oppure con... diversamente abili, con problemi anche di sviluppo mentale. Io, siccome sono una persona che adora i bambini in tutte le loro situazioni e forme, accettai e andai a questo simposio. Si svolgeva dalle 9 di mattina fino alle 8 di sera. furono invitate moltissime personalità italiane da Trento, dalla Toscana, su questo tema, come bisogna stare a scuola, come trattare questi bambini, eccetera eccetera. E siccome in Germania naturalmente il problema dei bambini è il bilinguismo, nel senso che sono costretti a parlare italiano a casa, tedesco fuori, eccetera, prima di iniziare, io ero seduta lì molto tranquilla, devo dirlo sinceramente, molto tranquilla, prima di iniziare il simposio, questa signora Miranda, che io non conoscevo, dice: qui c'è la signora Ada Zappieri Zucker, che ha scritto La scuola delle catacombe, quindi lei sa qualcosa sul bilinguismo, vuole iniziare a parlare? Veramente un tuffo nell'acqua, dico: cosa? Ma io dice: sì, venga, le do 5 minuti di tempo, si presenti. Allora io ho fatto un discorso dicendo: ecco, in 5 minuti devo spiegare tutta la mia vita, il che è molto difficile perché ho impiegato un paio di annetti. Poi ho spiegato la storia del bilinguismo, e cioè che i miei figli sono tutti e due bilingue, parlano italiano e tedesco molto bene. Dopodiché sono distrutta, mi sono andata a sedere. In sala c'era una persona che era un'insegnante della Toscana, che subito comprò il libro e lo usò come libro di testa a scuola, cosa che mi impressionò moltissimo. Questo qui tanto per dire come nasce un personaggio o una storia. Intanto questa Miranda mi impressionò moltissimo per questi capelli rossi, per questa figura, per questa sua energia, e abbiamo fatto anche amicizia, devo dire. Per quale motivo Pisa? Anche questa qui è una cosa molto interessante. Un anno dopo questa storia io sono stata, proprio per La scuola delle catacombe, premiata col premio Gronchi, forse qualcuno sa che era un presidente della Repubblica Italiana, proprio per La scuola delle catacombe, lì vicino a Pontedera, dove è nato Gronchi. E io, per andare a Pontedera, ho passato 2-3 giorni a Pisa. Pisa mi piacque moltissimo, cioè non dal punto di vista turistico, per la torre e Battistero e tutte queste cose, ma per le sue stradine, per queste case vecchie, per il lungo Arno, per tutta questa atmosfera particolare della città. E questo qui già l'avevo dentro, questa città, che dovevo infilare da qualche parte. Ecco perché questa Miranda, che non è di Pisa, ma è di, non mi ricordo più quale posto della Toscana, l'ho infilata a Pisa. Questo, così hai dato due delle città, delle tre città che compaiono nel racconto. Allora forse possiamo anticipare perché Erding, di cui forse alcuni di noi bevitori di birra conoscono la collocazione o perlomeno il nome. Erding come ci capita dentro questo racconto? Ecco, perché in ogni racconto ci vuole pure un uomo, scusate tanto se lo dico, perché tutto il femminismo di questo mondo, ma se non abbiamo gli uomini contro di noi, che facciamo? Contro. O di fronte, diciamo, di fronte a noi, senza uomini non c'è niente da fare. E allora ho dovuto prenderci un uomo, metterci un uomo. Mi interessava moltissimo uno dei capitoli storia di Pisa, che nel 44, al momento della liberazione dai tedeschi, ci furono degli scontri veramente molto duri fra soldati italiani o resistenza, come le potete chiamare, e tedeschi. Questo fatto lo volevo infilare dentro, in ogni caso. Come farlo? Avevo bisogno di un tedesco, un uomo, un tedesco, e lì ho abbastanza conoscenza perché ci vivo da 50 anni. Dunque, adesso introduco il personaggio per il quale lei si è trasferita a Bolzano. Voi mi direte: perché proprio Bolzano? Lo dico subito. Allora, Enrico, in realtà Heinrich, lei lo chiamava chiaramente Enrico, non era mai riuscita, con Enrico non era mai riuscita a discutere o litigare. Lui faceva parte di quella particolare generazione di uomini cui un regime autoritario aveva imposto un sistema educativo, in questo sostenuto dai libri pseudopedagogici di Johanna Harrer, che escludeva in modo categorico ogni più piccola manifestazione emotiva. La sensibilità poteva formare solo un carattere debole e infido. I ragazzi fin da primissimi anni dovevano imparare che un vero uomo è immune a ogni forma di dolore. Se questo c'è, bisogna stringere i denti e dar prova di coraggio. Meglio ancora, ignorarlo. Ogni sofferenza di qualsiasi genere, fisico o morale, era da considerarsi una debolezza che potevano permettersi solo le femminucce. Devo dire che questo famoso libro di Deutsche Mutter und ihr erstes Kind è stato venduto per milioni di copie in Germania fino agli anni Ottanta ed è una cosa spaventosa perché ha influenzato moltissimo l'educazione di tante, di diverse generazioni. Mi dispiace per chi è tedesco qui, che magari si arrabbia, però è la realtà, perché questa donna, Johanna Harrer, fra l'altro non era né pedagoga né psicologa, ma era una specialista per malattie polmonari. Ma era una donna famosissima perché scriveva continuamente nei giornali articoli sull'educazione dei bambini durante tutto il periodo nazista. E quindi il suo libro fu venduto per milioni di copie. Il libro poi fu ristampato dopo la guerra, non più di Deutsche Mutter, ma di Mutter und ihr erstes Kind. Allora hanno tolto la tedesca, la madre tedesca, ma hanno messo, e questo libro è stato venduto fino agli anni Ottanta. Questo l'ho saputo da una rivista scientifica, anche qui una pizza che non finisce, però ho imparato tante cose. Questo è il Heinrich. Mentre invece Miranda, pur essendo cresciuta sotto un regime di chiaro stampo dittatoriale, è nata durante il fascismo, proprio per il carattere tipico della gente italiana, ma soprattutto tenendo conto della regione dove era nata e vissuta, aveva conservato un margine di scetticismo dovuto forse alla visione critica della sua famiglia, che del fascismo si faceva beffa anche se soltanto in privato. Io voglio escludere tutta l'altra parte perché è bene che parli pure un pochino di lui. Ma come vedete è difficile per una donna così forte cercare di condurre, perché giustamente Ada Zapperi, di cui peraltro io usurpo il tu, e mi diceva: sì, se tu fossi mio allievo di canto te lo scorderesti il tu. E siccome Ada vede che c'è una sua allieva importante, non la salutiamo. Certamente, io devo dire subito che sono estremamente onorata di avere qui una stella, veramente una stella, che illumina tutta la stanza, una cantante di fama internazionale che mi ha fatto l'onore di essere venuta alla mia presentazione. Questa è Gemma Bertagnoli. Applauso. Ma lei non mi dai tu? No. E ci mancherebbe. Non ho neanche l'uso del nome. Quando le scrivo gli dico: carissima signora Zapperi. Esatto, brava. Perché capite la mia situazione di imbarazzo in questo momento. Allora, veniamo davvero alla figura dell'uomo. L'uomo tu citi, che è Heinrich Enrico, è un uomo che con il suo passato sostanzialmente non ha fatto mai i conti, e se c'è una cosa che ritorna spesso nei tuoi racconti è proprio la necessità di fare i conti con il passato, quasi che non farli crei non solo incomprensioni ma anche difficoltà dal punto di vista dello sviluppo della propria personalità. Il rapporto tra Miranda ed Heinrich, con Enrico, è qui a Bolzano in particolare, dove Miranda si trasferisce, palesemente in crisi sulla base di una incapacità di comunicare sui fondamentali. Ci racconti quali fondamentali? Dunque, fondamentali, no, non ho detto per quale motivo proprio Bolzano, scusatemi, eh. Dunque, questa signora Miranda abita a Pisa e insegna, è sposata con questo tedesco che vive in Germania, però non è affatto disposta a trasferirsi in Germania. Dopo 15 anni di matrimonio si rende conto che il suo matrimonio si sta logorando dovuto alla distanza forse, o anche a una certa stanchezza da parte di lui che non riesce a convincerla a mettere su veramente una famiglia. Allora, siccome questo signore ha un'agenzia di trasporti, voi mi chiederete perché proprio un'agenzia di trasporti, questo me lo dovevo veramente inventare, perché altrimenti non avrei avuto nessun motivo di infilare questa persona a metà strada. Lui ha fatto una filiale dalla Germania, ha aperto una filiale a Bolzano. Eccoci. Adesso c'è la necessità di Miranda di venirgli incontro. Ecco perché lei cerca, chiede un trasferimento, a parte che lei è una maestra, un'insegnante abbastanza scomoda a scuola, quindi il preside le consiglia di cambiare un pochino aria. E il secondo motivo è in questo modo di avere più vicinanza col marito. Ma una delle scene, secondo me, più interessanti di tutto il racconto, scusate, questo non voglio togliervelo, è questo, come si sono conosciuti. A Pisa, questa. A Pisa. Si erano conosciuti nella cantina della sua casa a Pisa un tardo pomeriggio di fine estate del 1944, esattamente il 3 settembre, quando la madre l'aveva mandata giù per prendere un materasso e altri oggetti portati lì per trascorrervi le notti durante gli ultimi bombardamenti. Il giorno prima gli alleati erano finalmente arrivati e la guerriglia degli ultimi tempi aveva avuto termine. Salto un po'. Quel pomeriggio notò subito che la porta non era chiusa a chiave, come sempre, ma soltanto accostata. Pensò che avesse avuto dimenticato di chiuderla bene. Di certo una inquilina piuttosto sbadata che lei conosceva, che era venuta anche lei a prendere la sua roba. Non era la prima volta che accadeva. Presi a scendere le scale. A metà percorso si fermò. Un uomo in mezzo alla cantina aspettava. Nella penombra di quell'ora, e data la poca luce che veniva dalla piccola finestra, non poteva distinguerne il viso, ma era chiaramente in divisa militare. E questo è Heinrich, è il tedesco. Un incontro favoloso. Devo dire, questa è un'idea che se non l'avessi avuta avrei pagata per averla. E Heinrich lì appunto incontra Miranda per la prima volta, si vedono e pare che questo incontro non lasci traccia. Miranda dà un bicchiere d'acqua a quest'uomo che è assetato, che ha bisogno sostanzialmente di sopravvivere, le chiede anche degli abiti per poter fuggire, e nel momento in cui Miranda appunto va a cercare qualcosa al suo ritorno riesce a scappare. Però questo incontro non si spezza, non si interrompe, a distanza di 6 anni. Poi vorrei chiedere una cosa a proposito di questi 6 anni e del primo viaggio che Miranda fa in Germania. Lui si ripresenta palesando già quella vena di romanticismo, no? Che poi mette anche in difficoltà la stessa Miranda, la inganna, e riprende i contatti con lei, anche qui con una sorta di colpo di scena. Esattamente 6 anni dopo, esattamente il 3 settembre, che cosa si inventa Heinrich Enrico? Io purtroppo questo non mi hai sorpreso. Ma puoi dire, puoi dire. Guarda, questo qui mi mette nei guai. Dunque, il fatto è questo, che 6 anni dopo, proprio lo stesso giorno in cui si sono conosciuti, lei vede un uomo che va avanti e indietro davanti alla porta di casa sua, perché lei non lo ha visto. Lei non ha visto il suo viso, dato che era in controluce, e non lo riconosce. Lei va ad aprire la porta e una voce dietro gli dice, con la stessa voce che lei non dimenticherà mai: "Bitte was?" E questo è un momento in cui lei si sente, si gira e lo guarda per la prima volta, perché aveva sentito soltanto la voce ma non l'aveva mai visto in viso. E lui pare che tutti questi anni non abbia fatto altro che pensare a lei, insomma, una storia d'amore ci voleva pure, no? E lei però, e questa è una cosa molto importante per me, Miranda non è matura per un rapporto duraturo, ecco perché non va in Germania. E sì, lo sposa perché lui vuole sposarla. Lei praticamente, come scrivo da un'altra parte, si lascia amare da lui senza sapere che cosa effettivamente sia l'amore. Questo è uno dei problemi, scusate se lo dico, di molte donne, che si cullano nell'amore della madre, del marito, del padre, ma loro stesse non hanno la capacità di trasmettere questo sentimento. E se lo trasmettono, poi il più delle volte è un po' tardi, cioè il marito già si è stancato. Poi nasce la crisi matrimoniale, cioè la crisi matrimoniale che normalmente si attribuisce all'uomo, bisogna attribuirla anche alla donna che non è maturata insieme a lui. Adesso lui, le donne hanno anche loro difficoltà a crescere, non soltanto gli uomini. Dunque, facciamo il suo, lui, tu volevi il suo arrivo in Germania, no? Sì, ma guarda, c'è il una cosa che questo colpisce, adesso mi uccide. No, il viaggio che la prima volta Miranda fa in Germania è un viaggio in un treno, scende il suo arrivo è a Monaco e Miranda, che appunto dice in un altro punto Ada è molto razionale e forte nel suo lavoro ma molto labile dal punto di vista personale, riflette sul fatto che solo 5 anni prima quella Monaco in cui lei scende dal treno era la Monaco del nazismo. Esatto. E quelle persone che sono con lei sul vagone, che adesso, che forse 5 anni prima erano o 6, 7 anni prima erano alleati nella guerra, adesso vengono da piccoli italiani, lei dice, in Germania a cercare lavoro, e questa è una situazione che la disorienta e ancora una volta aggiunge un elemento di inquietudine o di irrisolutezza, insomma, in questo rapporto. Effettivamente questo l'abbiamo dimenticato tutti, la maggior parte dei lavoratori italiani che sono andati negli anni 50 o subito dopo la guerra, 47-48, in Germania, sono sempre gli stessi che, poveretti, avevano lavorato durante il periodo della guerra, o costretti o per libera scelta, perché in Italia non c'era lavoro, e queste persone sono costrette un'altra volta ad oltrepassare le Alpi e andare in Germania a trovare lavoro ed abitare nelle stesse baracche dove abitavano prima, 5 anni prima o 7 anni prima. È una storia veramente assai triste dell'immigrazione italiana in Germania o all'estero. Ad ogni modo, io volevo soltanto scrivere come è arrivata lei a Monaco. Durante le vacanze di Natale di quel lontano 1950, Miranda era andata per la prima volta a Erding. Adesso vorrei che raccontare un episodio abbastanza strano, di come succedano appunto queste situazioni in cui, per quale motivo Erding, potevo trovare un'altra cittadina della Baviera, oppure Monaco, qualsiasi altra, perché Erding è una città molto antica con una quantità di torri che sono state distrutte durante la guerra. Erding è stata quasi rasata al suolo perché c'era un aeroporto militare proprio lì accanto e fu bombardata proprio in modo spaventoso. Quindi, mentre Pisa è anche una città piena di torri, avevo bisogno di una città anche questa piena di torri, ma completamente diversa. Non solo, adesso racconto un episodio abbastanza strano, e cioè io e mio marito abbiamo l'abitudine di andare in giro per la Baviera in varie cittadine, così poi andiamo a pranzo, e siamo andati ad Erding perché la cittadina è molto interessante, è chiusa dal fiume Sempt, che la circonda come un ponte, come una specie di fossato. Molto buono per la difesa, soprattutto nel Rinascimento, ma anche nel Medioevo, e questo mi era molto piaciuto. Era andata lì e questo posto così non è stato bombardato, e lì c'è la casa di Heinrich, questo l'ho infilato io perché mi piaceva tanto, era una casa degli anni 20, una casa di proprio costruita in un modo particolare che mi piacque molto. Poi siamo andati a pranzo e il ristorante si trova in una torre, ogni piano di questa torre è una sala del ristorante, poi si va al secondo e terzo, un ottimo ristorante. A un tavolo vicino sedevano due persone molto strane, una coppia di una certa età, diciamo fra i 60 e i 70 anni, marito e moglie. Lei era una donna altissima, magrissima, molto dura, lui piccolo, rotondetto, senza capelli, con spessi occhiali. Mangiavano senza parlare, se si parlavano ognuno guardava da un'altra parte. C'era in questa coppia di sposi, che erano forse sposati da 50 anni, un odio sotterraneo che proprio travalicava, andava oltre. Io lo sentivo e mi irrigidivo, però mi affascinava questo risentimento continuo che si sentiva proprio, cioè loro se dicevano una frase, io ero lì vicino, scusate, sono molto curiosa, e sentivo che lei parlava guardando qui e lui parlava lì, mai si sono guardati. Questi sono i genitori di Heinrich. mi sono piaciuti tanto che li ho infilati dentro, perché sono due tipi abbastanza caratteristici di un certo tipo di Germania nazista, tant'è vero che il padre, poi viene fuori, era il capo della polizia di Erding, uomo assai temuto, il quale disse al figlio, rientrato dalla guerra nel 47, disertato, ma non lo disse mai al padre, meglio un figlio morto che un disertore. E su questo punto non si discuteva. Ecco perché avevo bisogno di questi genitori. Prego. Quindi sentiamo la lettura della Riva Monaco, ovviamente, perché siamo molto avanti. Il rapporto con la guerra, dice Ada, tra il padre e il figlio, ancora una volta è un nodo irrisolto. Mai il figlio ha confessato quello che di fatto a lui è avvenuto. Però c'è un aspetto che deve mettere, insomma, un po' in attenzione chi legge questo racconto. Quando Enrico parla, ad esempio con Miranda, ma anche in contesti più ampi, della guerra, Ada lo sottolinea un paio di volte, usa un tono di vittima. Certo. La Germania nazista, appunto, che sappiamo, insomma, è la responsabile, insomma, della Seconda Guerra Mondiale, viene interpretata nel ricordo che Henry forse fa prima di tutto a se stesso, come una storia di vittime. Lui, soldato, è sostanzialmente una vittima, e noi sappiamo peraltro invece come in Germania i conti, insomma, con il passato siano stati fatti in maniera anche piuttosto approfondita. Voglio chiedere perché però Ada ha scelto di raccontare questa storia come se Henry sentisse se stesso prima di tutto come vittima. Dunque, il problema della vittima c'è stato in Germania fino agli anni 70, devo dire che subito dopo la guerra tutti i tedeschi si sentivano vittime, e più o meno devo dire che lo sono veramente stati, perché bisogna considerare tutto questo terrorismo che è stato veramente propagato anche nelle case, dentro le famiglie. Era un terrore sotterraneo, che ognuno, qui c'è anche una parte, che uno sentiva un'inquietudine, c'era benessere ma c'era paura anche. Bisogna considerare che i tedeschi hanno costruito una quantità, subito dopo, non i tedeschi, diciamo, perché siano sempre gli stessi, i tedeschi, i nazisti, la prima cosa che hanno fatto è stato quello di costruire dei lager proprio accanto alle case, così che la gente potesse vedere cosa succedeva se loro non si comportavano bene. Qui devo raccontare un particolare. Io abito a Monaco, e a pochi chilometri, non so, sono 30 o 50 chilometri, c'è Dachau, che è famosissimo in tutto il mondo. Io sono andata una volta, per non mi ricordo più quale racconto, perché io non faccio altro che girare per i miei racconti. Sono passata dalla strada che con il muro, dove il muro di cinta di questo lager, e ho visto che le case di sopra, che sono costruite sull'altro lato della strada, praticamente dalla finestra potevano vedere dentro, cioè non c'era nessuno in Germania che non avesse visto cos'è un campo di concentramento. Non solo, ma la mattina tutti i condannati dovevano uscire dal campo e andare a lavorare, e tutta la città di Dachau era attraversata da questa fila di poveracci vestiti con i vestiti a righe, con gli zoccoli, affamati, desolati, inutile che voi, ognuno di voi sa, penso, cosa fossero. Quindi non c'è nessuna possibilità che queste persone vengano a dire subito dopo la guerra che non avevano saputo niente. Questo per me è molto importante, perché fu il periodo dell'amnesia totale di tutta la Germania, durata fino alla fine degli anni 60, cioè fino al famoso 68, quando i ragazzi, i giovani, hanno detto basta, vogliamo sapere cosa è successo e basta con queste storie, eccetera. Però prima tutti erano vittime. Il racconto di tutte le persone, io ho conosciuto molti, vivo da 50 anni in Germania, non è uno scherzo, tutti quanti dicevano ma sì, certo, abbiamo perduto la guerra. Io penso in volta, mamma mia, meno male. Però tutti quanti lo dicono, sì, certo, abbiamo perso la guerra. È un tono proprio di vittima che io ho sentito tutto il tempo da una certa generazione. Ecco perché l'ho messo qui, non potevo ignorare questo capitolo così importante del vittimismo dei tedeschi, i quali non soltanto hanno avuto tutta la Germania distrutta, le città rase al suolo, hanno dovuto pagare un sacco di soldi per i danni di guerra degli altri paesi, insomma hanno avuto un sacco di guai, non è vero che... E poi il dopoguerra e la guerra è stato durissima per i tedeschi, molto più che non, diciamolo, per l'Italia, per gli altri paesi. È stata una lezione durissima che hanno ricevuto, perché c'era stata già la prima guerra mondiale che non avevano elaborato abbastanza. Con la seconda guerra mondiale i tedeschi hanno detto basta con le guerre, però accidenti quanto hanno dovuto pagare, e hanno pagato tantissimo. Quindi questo tono di vittimismo non è poi generato da non so quali sentimenti, da una realtà. Erano effettivamente vittime di loro stessi, se vogliamo dire la verità. Però non fai sconti, Ada, perché la figura di Heinrich, che usa appunto spesso questo tono vittimistico, in realtà nasconde una storia a sua volta. Una storia che non viene svelata completamente, ma non la svegliamo neanche qui. E non la svegliamo, però in cui ha un ruolo importante questa signora alta, durissima, la madre di Heinrich, perché il padre, questa è una cosa che possiamo svelare, che è stato capo della polizia appunto nazista, in un successivo ritorno di Miranda in Germania nei suoi viaggi avanti e indietro, perde completamente la memoria. La sua dannazione, la sua malattia finale è proprio quella di perdere, smarrire completamente la memoria. La madre no, la madre dura, cattiva, tra virgolette, invece è quella che di fatto, nella sua cattiveria, nella sua spietatezza, dà un appiglio, dà un motivo a Miranda per capire qual è la sua situazione, forse per capire qual è la radice dell'incomprensione con questo misterioso marito. Certo, no, è molto importante, devo dire subito che questo racconto così tragico finisce con un tango. È veramente incredibile, però, e questo è vero, questo è verissimo, il fatto che dell'uomo demente che balla il tango e conosce benissimo i passi del tango nonostante la sua demenza. Questo è molto importante. Ad ogni modo, tanto guardare, perché siamo sottoterra al momento. Allora, l'incontro è molto importante, l'incontro di Miranda, italiana, di 25 anni allora, molto impreparata a tutta questa storia, entra in una casa tedesca per la prima volta. La madre aprì la porta e dopo un primo momento di imbarazzo le tese una mano dura, legnosa, guardandola freddamente negli occhi. Vestita di scuro, era alta, diritta, magra, i capelli bianchi, lisci, lunghi fin sopra le spalle. Nei suoi occhi c'era una domanda chiara e precisa. Chi sei? Cosa vuoi? E non finì mai di scrutarla tutto il giorno, senza un sorriso. E continuava a scrutarla ancora adesso, dopo tutti quegli anni, ogni volta che veniva in visita. Sempre quella domanda negli occhi e l'incapacità di sorridere, di trasmettere un minimo di calore. Devo dire che questa donna non è cattiva, è una donna che è stata ferita duramente, prima di tutto da tutto il periodo nazista, dall'educazione durissima che ha ricevuto lei, perché lei è della Germania del Nord e lì la durezza è ancora, lasciamo perdere, e c'è anche questo marito nazista che era sicuramente non certo un buon marito. Qui lasciamo perdere, perché almeno qualcosa devono leggere, no? Certamente. Adesso sapete tutta la storia. Praticamente tutta. Però, allora, visto che hai detto siamo un po' sottoterra, in realtà questo racconto, dal mio punto di vista, finisce bene, perché alla fine del racconto Miranda, in effetti, capisce di sé qualcosa. Ha bisogno di forse molti anni, insomma, no? per capirlo, ha bisogno probabilmente anche di cambiare città, e forse anche questa è una cosa su cui potresti dirci qualcosa di più, Ada, per capire quello di cui ha bisogno. Però alla fine prende una decisione netta. Lei, titubante, sempre trascinata dal, dal marito, anzi c'era una frase che io mi ero segnato questa volta, a questo punto la leggiamo. La leggi tu, eh? Sì, va bene, ma è molto breve. E per raccontare come Miranda aveva una relazione con suo marito, questo era Enrico, che era anche in grado di darle grandi soddisfazioni romantiche. Lei aveva imparato a capire i suoi sentimenti romantici e a non sorriderne mai. Probabilmente se Miranda avesse avuto la capacità di prendere un po' in giro anche suo marito, forse questa storia non sarebbe durata così a lungo. Però dicevo, il racconto finisce bene perché Miranda prende una decisione, finalmente è in grado di crescere, l'hai detto tu prima. Sì, perché essendo cresciuta, questo è uno dei problemi anche fondamentali di noi tutte donne, soprattutto quello di vivere in una casa ben protetta, anche se non proprio tanto felice, ma sempre protette, in una città che conosciamo, che abbiamo effettivamente, che ci dà anche sicurezza. Scusate, perché devo trovare questo passo dove si descrive la cosa molto importante del motivo per cui è necessario che una donna soprattutto esca di casa per crescere, per imparare a prendersi le sue responsabilità, non soltanto, ma ad acquistare indipendenza. Questo scusate, se non lo trovo ve lo dico a voce. Mi ero segnato. Appunto di Miranda non era molto, molto facile che la ragazza lasciasse andare in giro per il mondo per fare la sua cosa. Perché... Sì, lo raccolti meglio, sì. Anche per dire quasi morto, doveva andare esatto, via. Esatto. Il fatto è questo, che quando una persona, Miranda era vissuta sempre a Pisa, e lì aveva studiato, era cresciuta, insegnava, praticamente tutta la sua vita si chiudeva a Pisa. Questo non voleva dire che non avesse fatto dei viaggi, andare fuori, eccetera, è andata anche in Germania negli anni 50, subito dopo la guerra praticamente. Però stabilirsi in un'altra città, abitare in un'altra città, vivere veramente in un'altra casa che non sia quella dei genitori, questo è uno dei capitoli più importanti dell'evoluzione di una persona, soprattutto di una donna. Ecco perché lei, prendendo questa decisione, si accorge di essere stata fin troppo protetta e di cercare in se stessa la propria protezione. Questa è una cosa molto importante perché in tal modo, ecco qua, eccolo qua, quel trasferimento nelle vicinanze, anche se relative, di Enrico, voleva essere un tentativo di emancipazione dai modelli familiari, ma anche una presa di coscienza della propria immaturità e insufficienza affettiva. Cambiare vita nella speranza di acquistare un maggior senso di responsabilità, una nuova visione di sé e del suo rapporto con Enrico. Ecco cosa le aveva spinto a intraprendere questa grande avventura. Questo qui è una cosa molto importante, soprattutto, veramente lo ripeto, per le donne, per educazione sempre abituate ad essere protette. Allora, noi siamo quasi alla fine di questa presentazione in cui abbiamo analizzato il racconto Un giorno a Bolzano, in cui hai voluto anche raccontare un po' come entrano i personaggi. Peraltro non so se qualcuno di voi magari in un prossimo racconto si ritroverà dentro un racconto, visto che spia anche i vicini, i commensali, perché magari qualcuno di noi in altra forma ritornerà. Però, visto che abbiamo citato anche la tua esperienza principalmente, insomma, legata al mondo del canto, della lirica e quindi anche delle opere e quindi anche dei libretti d'opera, io non lo so se qualcosa delle vicende che vengono narrate nelle opere, al di là del tuo interesse per la storia del XX secolo, al di là della tua curiosità per l'ambiente umano che ti circonda nelle più diverse situazioni, entra nelle tue fantasie di scrittrice. Molto difficile, perché purtroppo tutte le opere sono del 700, dell'800 e hanno una visione della donna molto diversa da quella che abbiamo adesso noi. Per questo noi abbiamo cambiato moltissimo nella nostra visione del femminile. Le donne hanno acquistato molta indipendenza, hanno imparato a usare la propria testa, a prendere delle decisioni. Cosa che, per esempio, nelle opere, se prendiamo la Lucia di Lammermoor o tutta qualsiasi, sono sempre delle vittime le donne, che poi finisce che muoiono. No, infatti, e questo non mi piace affatto. Quindi non mi ispira nessuna opera, grazie. Per contrasto, allora, diciamo così. Bene, allora io non so se c'è qualcuno di voi che vuole fare qualche domanda ad Ada Zaffiri Zucker, che così se vi ha destato c'è qualche, qualcuno senz'altro, che vuole farmi una curiosità. L'allieva. Ma sai, devi sapere che perché ti ho fatto questa domanda sulle donne, perché da molto tempo Gemma Bertaglioni invece va proprio a pescare nelle, non nelle opere settecentesche, ha ragione, un po' prima, figure di donne che invece nei testi scritti sulle donne sono sorprendentemente rivoluzionarie, non so se... e vittoriose. Ma quello è prima esatto. Il Risorgimento aveva bisogno di modelli borghesi e quindi ha ridotto le donne a un ruolo di subalternità, ma è una questione di Risorgimento e di creazione di identità. Ma è un'altra cosa. È un'altra conferenza, però appunto. No, questa è molto interessante. Una volta ne parliamo. Ne parliamo, sì. Anche perché donne battagliere qui dentro se ne trovano molte nei libri di Ada Zaffiri. Se davvero qualcuno vuole fare qualche domanda, se no la applaudiamo così. Sì. Eccola. Diceva che Heinrich ha dovuto inserire un uomo, è inventato. In parte. Perché allora tutta la storia. No, in parte, perché quest'uomo è il vero marito della signora di Miranda, quello che. Il marito di Miranda è effettivamente sposata con un tedesco, però qui siamo, almeno bisogna considerare 30 anni dopo di quella dove ho infilato io la storia. Non potevo mettere veramente il marito di Miranda, perché quello mi avrebbe fucilato. No, ma lei è sposata effettivamente con un tedesco ed ha dei problemi matrimoniali assai grossi. Ecco, questo lo posso dire già, perché mi ha anche autorizzato. No. Tanta parte sicuramente. Anche capacità di osservazione, no? Perché lo spunto comunque dalla vita reale c'è, nella costruire, certo, dei personaggi. Certo. Il capo della polizia. No, il padre del marito vero di Miranda era un giornalista. Tanto per cambiare le cose, no? Le cose stanno così, in realtà la vera realtà è quella che ci inventiamo noi. Scusate se dico una cosa banale, ma è vero, perché queste storie vivono molto più della storia vera di Miranda, che non conosce nessuno. Infatti lei era contentissima quando le ho detto: guarda, ti ho fatto protagonista di una storia. Ah, dice, sì, davvero? Fammelo leggere. Era molto contenta. Anche a me, a Miranda. La vera Miranda avrà una cinquantina d'anni. Ah, già? Allora. Sì. Ma io l'ho spostata di molti anni. Sì, sì. E il marito? Ma il marito credo che abbia una decina d'anni più di lei. Pensavo che era più vecchio, diciamo. No, tutto spostato. È chiaro che per costruire un racconto, questa è una cosa importante, bisogna che la cornice storica sia giusta. Se mettevo questa storia nel nostro tempo, allora tutti questi episodi che sono dentro non avrebbero più avuto spazio. È molto importante, capisce? Io se dico in era nel 64, sono praticamente 20 anni dopo la fine della guerra, e allora c'è un'altra atmosfera, è un'altra vita, un altro modo di vedere la vita. Insomma, ho scoperto tutti i miei segreti, adesso sapete tutto di me. Forse un ultimo possiamo dirlo, perché se hai citato la Miranda, che è molto contenta di essere diventata protagonista, forse una cosa comune i quattro racconti e la biografia che compongono questo libro, Un giorno a Bolzano, che tutti e quattro in effetti possono essere letti come omaggi a storie personali che non hanno mai conosciuto la ribalta o forse il senso di protagonismo. E forse vorrei che ci dicessi davvero un nome, il nome della biografia ultima con la quale questo libro si chiude, perché ripercorre la storia di una persona che possiamo anche dire sfortunata, forse non nel complesso, nel bilancio della sua vita, ma che proprio a chiusura del libro hai voluto omaggiare, certo, con il ricordo. Io ho anche dedicato il libro a lui. È un uomo che ho conosciuto io negli anni 60, perché ero a Vienna in quegli anni, ed è si chiama Hans Halbach. era un regista cinematografico ebreo, del quale io non sapevo neanche che fosse ebreo. Non sapevo, lo conoscevo, era un uomo di grande sensibilità e, devo dire, sempre ubriaco, un uomo di grande genio, e a un certo punto è sparito e non sapevo più niente. Dopo, non so, forse sarà 5-6 anni fa, per caso ho ricevuto un libro di un museo del cinema dove c'era pure il suo nome. Allora io ho guardato in internet, questo si fa normalmente, e posso dire con grandissima angoscia di aver trovato il suo nome nella lista di un lager, che era l'unico sopravvissuto di tutte le persone dove c'era la data di morte. L'unico era sopravvissuto, è stato dal 41 al 42 in quel lager. Questo mi ha sconvolto, come non posso neanche dire, il pensiero di quell'uomo che io ho conosciuto e sapere che lui ha trascorso non so quanti anni in un lager. E allora ho deciso di cercare di cercare le tracce, ecco perché sulle tracce di una biografia, cioè volevo che quest'uomo uscisse fuori dagli archivi, dalle cartacce polverose, e diventare un essere veramente vivente e umano. E sono andata 4 volte a Vienna a fare delle ricerche. Non posso dirvi che non è stato facile, e sono riuscita a ricostruire più o meno, prima di tutto, l'origine di questo nome Albalá, che è di origine spagnola, perché il padre, cioè i nonni, i discendenti, gli antenati, gli avi, erano stati cacciati dalla Spagna, esattamente, ed era finito nella parte osmanica della Germania o dell'Austria, non so, in ogni modo lui era il nome era di origine spagnola. Il padre di questo Albalá era un giornalista, ma anche di nome, era direttore di un giornale ebreo, sposato con una donna che non era ebrea. Quindi il mio amico era mezzo ebreo e mezzo cattolico, mezzo cristiano. Questo lo ha più o meno salvato, perché secondo le leggi di allora, se fosse stato tutto ebreo sarebbe stato già eliminato, mentre invece per questi mezzi fino all'ultimo momento li hanno tenuti, perché un pezzetto di sangue di questa gente, guardate un po', era ariana. Allora cercavano di salvarli. Ecco perché lui è sopravvissuto su 470 che erano nel lager. Una storia tragica, perché poi l'ho seguito man mano attraverso i documenti che ho cercato e negli archivi, non vi posso dire cos'è stato. E finalmente poi ho trovato anche la sua tomba. A Vienna, sì, dove c'era soltanto il suo nome, Albalá, neanche la data di nascita, di morte, soltanto il nome Albalá. È stato per me una delle cose più... cimitero cristiano, un cimitero ebraico, un cimitero normale, perché lui era uscito dalla religione. Sì, sì, lui non era più ebraico, non era più ebreo, però continuava a stare lì. Ad ogni modo, l'ultima storia è una storia di ricerca, cioè di ricerca di rimettere una persona scomparsa, di dargli i giusti onori e la dignità che ogni essere umano guadagna. Questo è l'ultimo racconto. Con questa storia così triste abbiamo finito, dai. Grazie Ana, che ci firma volentieri. Grazie Ana per la presenza.